cuociamo, stavo preparando qualcosa da mettere al forno per stanotte. Ok, roba buona. No, roba funghi al forno, roba così. Io sono buono. Io due sono buoni. Buonissimi, anzi, non buoni, buonissimi. Il sugar. Ogni stazionale ed è qua. Non lo sai, anch'io. Tanto manco ci muovevo adesso sul vatti metto sono, sul ros metto sono a 1,1, 1,2, a volte anche 1,3, e vabbè, il tempo è. E allora, qua quando schiaccio non si muove l'acqua, e anch'io sono 1,2, 1,3. E domani vedo là se riesco a sistemare questa antenna, se no è un macello. Lui, te l'ho detto, se vedi le mie, per carità. Per carità, fatelo da Andrea oggi e bisogna per forza abbassare tutto e sistemare tutto, se no è un casino, tutto in fase di abbandono. Cara gara, io domani provo a vedere se riesco a farmi quella fascetta, se no rimane 6 anni così adesso. E vabbè, quello non è un problema mettere a posto, il problema è farne tutti noi. Bah, cazzo me l'ha fatto fare oggi, complici. E vabbè, prima non ci hai pensato, ma adesso magari è diversa la cosa. Ascolta, la modulazione di questa radio è buona con questo microfono. Perfetto, lo stai usando 430 o l'altro? No, il Magno sto usando con un Midland. È bella, normale, bella, bella amplificata anche. Pensavo stavi usando il microfono a tavolo. No, no, non è un microfono a tavolo, già va bene questo. Al mare, là. E aspetto controllando i watti. E va bene, va, 30 watt. Con quella là sì, vero? Con quale? Io l'ultima là, quella che ha fatto il microfono. Sì. E no, non andava bene perché mi stavo ascoltando col Moni e sfasa, invece mi sono fatto ascolto col 440 e la regolazione sembra quasi simile al 440, dai. Tanto il microfono è uguale, mi cambia niente. E qua? Quasi. Aspetta che ti ascolto con l'altro. Ehi, vabbè, poco. La timbrica è quella, gli acuti sono quelli perché qua c'è più radio, diciamo, a parte che digitale, però già va bene. Michele, quanto ce l'hai qua? A2 ce l'ho. A2, se lo abbassa di più è troppo. A2, però la modulazione è equalizzata, capito? C'è il processore digitale, non è che puoi arrivare a sentire la timbrica perfetta come 440, però non è che va così male. Secondo me se c'è l'equalizzatore potresti a toglierne poco gli acuti, appena. Aspetta, metto gli occhiali perché bisogna entrare nel menu. Se riesce, appena qua, giusto, secondo me c'è più bella. Allora, aspetta, vediamo. Equalizzatore. Allora, così praticamente l'equalizzatore ho tolto leggermente di acuti, com'è? No, non mi piace. Te l'hai giudito. Non si muove, aspetta che li rimetto, com'era? Questa è digitale, Massimiliano. Spinge molto, ma molto di più. Qui ve la già duimi. Questo fa sino a 100.000 equalizzatore, il Mickey Gain, tutto in digitale, te lo segna, No, rimettila com'era, non mi piace questa modulazione. Così, allora. Ecco qua, così è come la prima, ma già va bene, dai. Così c'è il processore inserito, però. Sì, così c'è il processore inserito. Processore inserito. Io poco fa ti ho ascoltato senza il processore, mi piaceva di più. Senza il processore è così, guarda. Così è senza il processore. È bella così, però. Boh, mi sembra che non spinga. Guarda, i picchi sono uguali. Prova a tirare un po' sul Mickey Game così. Allora, così è a 2. così è più bella, secondo me è il mio orecchio. Aspetta che mi metto le cuffie, se non mi sono ascoltato. Così è bella la radio qua. Se vuoi puoi provare a tirarlo ancora un pelino più su, giusto per una prova. Aspetta. Vai, va. Però è bella così, eh. Così mi pongo le cuffie. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, eccola qua. Allora, fammi la differenza, Quindi, così abbiamo detto che siamo senza processore, aspetta, e così invece siamo col processore. Io non ci andiamo, ci hanno messo col processore però. Aspetta che lo abbasso appena appena, lo riporto come era prima, 26. A 2,5 anziché a 3. C'è un abisso però col processore inserito, Massimiliano. C'è un abisso, ma a me piace più senza. Però, se a te piace così con il processore, lasciamo il processore, non c'è problema. No, vabbè, vediamo anche il parere degli altri, però ti ripeto. Io le prove le avevo già fatte con questa radio, le avevo già fatte, togliamo l'NB, 1, 2, 3, eccolo qua, bella chiara. Stessa cosa, allora, però qua dobbiamo entrare nel menu, i watt sono, 30 watt, 60, 70 modulati. Qua fai da 9 a 9,20. Posso entrare anche nel menu, aspetta, aumentare appena. Sono usciti da casino, uno menu, aspetta. Perché? Vabbè, sto girando, No, cazzo, aspetta. Gira. Perché i parametri c'hanno delle misure, capito? Nel senso che, allora, amano un aumento 20 gigabyte. Car, ecco, l'ho trovato, allora, 31, 34, 35, 37, 38, 40. 40 watt. Sei a Silveresi. 40 watt di portante, mettiamo a 50. Eccolo qua. 50 watt di portante, 80 modulati. Ne ha questo di forza. Il 44 c'ha più picchi di modulazione però. Questo non è che ne abbia molti picchi di modulazione, però grandi chicci già fa. Vabbè, ma lo rimetto a... Lo rimetto a 40, se va bene, 40 watt in M. E il piccolo di modulazione già sale, se spinge già sale. Vediamo qua. 1,1, 1,2. Aspetta che cambio, metto in cosa. Adesso il piccolo di modulazione è più alto. Ora. Allora qua fai da 9,10 a 9 quasi a 30. Me ne accorgo perché adesso il picchio è salito. Il picchio è salito, va bene, dai. Lasciamolo così. Allora, usciamo fuori dal menu. Aspetta. Eccolo qua, sono uscito fuori. Questo quant'era? Allora, lo mettiamo a 26, se ce la facciamo. 24, eccolo qua, dai. Lo mettiamo a 2,5 neanche, dai, già va bene. Sì, anche più silenzioso, ti porti dietro meno rumori. Sì, a 2,5 va bene, 2 è qualcosa, dai, non molto. E vabbè, quello che senti è il fone, che l'aria si sta asciugando i capelli. No, vabbè, però, prima era troppo, va. Aspetta un attimino qua. Sì, classe va bene, questa invece, te l'ho alzato un pelino. Così mi guarda, troppo forte così. No, a me piace, a te te l'ho fatto abbassare, ma a me piace quella modulazione corposa, bella alta, capito? No, ho tirato su leggermente i watt, non ho toccato il Mickey Game. E vabbè, ma automaticamente sale anche un pelino di radio. Per me la puoi lasciare anche così, non c'è problema. No, allora, mi avevo rimesso a posto, che tanto. La busta si vive nel gozo. E chi io? Io non ti ho mai detto niente per la radio, anzi, per me la puoi alzare in picco. No, tu no, l'ha detto, la busta si vive nel gozo, a chi non le fa bene, che così va bene, no? La stavo usando così, la tengo così, qua, va bene. Qui potrebbe andare bene anche quel 908, ovvero quello che, con l'equalizzatore. Ehi, ehi, no, perché stavo controllando se era tutto a posto. Ehi, va bene. Vediamo se la... Ehi, 30 watt sono là. Scala 20, va a fondo scala. Andava benissimo. E io gioco andava. Tutto andava. E quello adesso te lo lascio su quella radio, il microfono. Questo io ho due cavetti, se ben ti ricordi. Questo è l'MC60 del 430. Quando io lo uso con lo Iaesu, c'ho il cavetto Iaesu originale. Poi c'ho l'altro cavetto che è Kenwood, sempre originale, spiralato. Ah, ecco, quindi puoi attaccarlo sia una maniera che nell'altra, no? Sì, c'è il cavo diretto, fatto Iaesu, e il cavo suo originale. Va bene. E almeno puoi usare quello con 60, perfetto. Beh, certo che sì, però no, questo è che non dovrebbe rimanere che adesso è perché volevo provarlo con Iaesu, però c'ho il cavetto Iaesu e lo uso, capito? Ma vediamo, c'ho anche l'altro che mi ha dato Andrea, che è Icom, da usare anche con l'SM20. Ah, è vero, l'altro microfono, sì, cavetto anche lì, togli quello lì come metti quello, come lo sai, sono intercambiabili, no? Nel 60 c'è, lo stacchi dal coso, ci attacchi l'altro qui. Va bene. Ed è quello che mi avevi dato tu, mi ti ricordi che mi avevi lasciato quel cavetto che non andava al down e up? Ah, sì. Ah, è vero, tu svitti da sopra, hai ragione. Io lo svitto dal microfono e ci attacco quello Iaesu. Lo svito e ci attacco quello che modo. L'ho messo a posto, Andrea. C'era un filo staccato, due fili staccati, certo. Quello nel connettore però che andava al microfono, non alla radio, capito, di quel cavetto lì. E quindi non funzionava il down e up. Sì, io mi ricordo, l'avevo comprato nuovo un cavo di quello che avuto. Sì, già mi ricordo. Yeah. Ma l'MC60 tuo con quel cavetto nuovo a chi l'avevi dato? No, claro, già non me ne ammento. No, perché a me non me ne hai dato. Quando hai dato il 70 non mi ricordo a chi hai dato il microfono. Se hai venduto il microfono a parte, non me ne ammento. No, forse avevo dato la radio col microfono. Quel cavetto l'avevo lasciato a te, mi pare. Non mi ricordo però, claro. Il cavo vecchio sì, l'hai dato a me. Tu hai dato il microfono allora col cavo nuovo. E a chi l'avevo dato il microfono, te lo ricordi? No, ma ce li hai passato un tanto tempo. Voi le operazioni tue sono di quelle viste la mattina e fatte la notte, o viceversa. E poi non me lamento manco io, ma che ragionando, boh. Non perditi che sia un bel veloce, capito? Io mi ricordo, ti avevo consigliato la radio, lì da Ullani ho imbarato la radio, sto ragionando, poi te lo dico, non hai fatto altro che farmi vedere l'altra che era già arrivata, quindi sei stato talmente veloce che non ho avuto tempo di capire che hai dato il microfono, vabbè, la radio lo so, ma non mi ricordo a chi era il microfono. Ah, boh, è la radio a chi lavora, adesso non mi ricordo manco a chi ho dato io la radio. Ah, Francesco, ragazzi, non te lo metti. No, ma quello è coso. Ma quello è S80 però. Però dopo ho preso un 140, non mi lamento manco la gara di un biliardo. Quello di Palermo era, mi pare. E quello che quando è arrivato non aveva i picchi tutti negativi. Avevamo fatto il picchio di modulazione e poi non me ne ha mai. Quello è vero, sì, tanti io sono rimasto. È vero, il 140 non so a chi l'hai dato. Ma non era arrivato a me a venderlo, no? Beh, non me ne ha mai. Poi ne ho preso anche un altro anche da Luca Flipper, ne avevo comprato, ti ricordi? Esatto, poi ho comprato anche quello. Spero che ti basti, mica ti tieni quella lì che hai, perché meno c'è una radio sedia. Io ce l'ho tutta la tutto il giorno acceso. Tutto il giorno. Comunque il 44 da quando gli ho fatto quell'operazione non ha più fatto l'effetto. La spengo la sera, la riaccendo la mattina, perfetta, come prima. Evidentemente quel lavaggio di trenina li ha fatto bene. Buono, buono, va benissimo. Alla grande, alla grande. Anzi, adesso passo il collo con quella lì, dai. Questa ho visto che va bene. La lasciamo stare così, allora macchina di regolazione è ottima, nel caso serva. Ehi, a voi, accettabilissima, va bene, lasciala così. Ok, allora aspetta che commuto l'altra, eh. Voglio anche tenerti quella. Scusa, stavo mettendo in 40 metri il 950, KK del rosmetro. Va bene anche questa. Io due va bene. Ma io in cuffie noto pochissima differenza, dai. L'importante è che ci abbia il microfono a tavolo, così quella la uso un po' più spesso. Se no stavo usando sempre il 430 e il 756, perché a me tenere il microfono in mano non mi piace. Vabbè, adesso che gli hai fatto il microfono potevi lasciare quella, a me non va un po'. E è meglio quando chissà è digitale, può stare anni. Tu lo sai che chi ce l'ha aveva, era dentro la scatola e mi pare che era un anno che non la accendeva. Addirittura? Eh sì, come l'altra che gli ho detto portamela che la uso io. Ne ha due che sono dentro la scatola ancora, dentro la scatola senza usare, tu immaginai già di... Vabbè, adesso c'è già poco tempo, purtroppo. No, non ha nulla di tempo, il problema è che c'è Massimiliano. Il tempo non ne ha niente, purtroppo, perché lavora e niente. E quindi va bene così. KK. No, e mi stamattina ho avvicinato una radio, quella radio che fischiava, ti ricordi l'altro giorno la stavo provando? Che fischiava un po', qualche innescava, che ti ho detto, Gannina, quel superstar che stavi usando tu. Ho provato, ho cambiato qualche microfono e non fischia più. La versione che io la stavo provando con quel microfono che stava inceppando. Sì, ma io te l'ho detto lo superstar quando l'ho provato io che era qua. Era alla grande, nel senso che non mi ha dato nessun problema, mentre gli altri ho dovuto pulire il microfono, sistemarti un po', insomma niente di che, però la pulizia gliel'ho fatta, quello non gli ho fatto niente, quindi mi sembrava strano. No, ma era questione di microfono, anche perché quando lo attacco alla radio non va, capito? Funziona, a volte esce, a volte non esce, quindi sicuramente quello che ho spostato il CRC l'altro giorno, sicuramente ci sono i carboncini consumati all'interno e li arrivita. Ma già c'ho qualche altro microfono vecchio, ci rimetto il PTT e lo rifaccio nuovo. E infatti non ci vuole niente a rifarlo, una fesseria. KK, va bene. Ehi, adesso stai usando il 30? Ehi, il 30, sì. Meglio, va bene, la modulazione. E a quanto l'hai messo il microfono? Mi ricordo, ce l'avevo segnato, quanto era? 5? 5,3, cos'era? No, ce l'ho a 2 dalla radio e a 4,5 il microfono. A 2 la radio? A 2 la radio, 4,5 il microfono, mettilo a 5 il microfono, tocca i toni, era 5, non 4,5. Sì, i toni sono a 5, il Mickey Gate sto dicendo il microfono, era 4,5. Era 5,5 e 2, anzi 2,5, era 5 i toni, 5 l'amplificazione del microfono, 2,5 quella del Mickey Gate della radio. Guarda, così è a 5 il microfono adesso, è a 2 è la radio, com'è? Non toccare niente, io così ci ho segnato. Era 2,5 addirittura, però l'abbiamo messa a 2 perché secondo come fischiava. Perciò lasciala così, io ho un fogliettino Massimiliano. Ecco, c'ho il tuo segnale, c'ho 5, 2,5. Poi ho messo infatti una lineetta, meno mezzo, quindi lascialo così, 2, 5, 5. E adesso è 5, 5 e 2. Aspetta, guarda. Guarda, l'ho tirato un pelino su dalla radio, ma proprio un pelo. Per me va bene, magari qualcuno te lo fa abbassare. perché inizialmente noi avevamo fatto regolazioni così, 2,5, 5,5, ce l'ho scritto qua. E io lo lascio a 2,5, 2,5, 5,5. Così devi andare con la radio. E stai usando un 60, precisa, identica. E la lasciamo così, qua. Va bene, va bene. Riferimento watt a segnale 4. Esatto, riferimento watt e segnale 4, esatto. Non tocca se. Brioche, così, me, così proprio. E così è, perché ce l'ho scritto qua, Massimiliano. Me li metto questi appunti nel blocchettino, perché magari facciamo una prova, cioè, ma prima andava, no, prima era Gusci, evidentemente l'hai educato, capito? Perché è già successo, allora me le segno. Quando io ho dei controlli particolari, qualche taratura, eccetera, allora mi segno tutto, perché se magari poi succede qualche problema, ma prima andava bene. Come ce l'hai adesso? Così no, così era prima, e così lo devi mettere se vuoi che vada bene, capito? Come tutti i parametri del 950, ma li sono tutti segnati a penna, perché se disgraziatamente entri nel menu, sposti un parametro, sei buttito, ma non per la M, no, che non me ne fotti nulla, per la banda laterale. La banda laterale ha una selettività, soprattutto i parametri, perché c'ha i parametri di equalizzazione, del ricevitore, tutti i parametri dei fili, insomma è un computer che quindi devi avere tutto sotto controllo, perché se li sposti, sai Marco, per regolare quella radio, mi ricordo, ci abbiamo messo una mattinata, una lui al computer e io regolavo i parametri in base a quello che mi diceva lui, con Marco Scorpio. Una mattinata ci abbiamo messo, quindi bisogna segnarli per non perderli, se no sei fottuto. Ma poi qua basta che tocchi appena appena, non esci più come prima. Appunto, anche queste. Io il 4,40 e il 4,30 che so come vanno. Il 4,30 ce l'ho leggermente più alto del tuo, ce l'ho a 3 in AM. In banda laterale praticamente fate tutta la giura. Fa tutto da solo perché spingo molto col 60, mentre 4,40 è sempre a 1,5 e il watt è sempre a 20, modulati 40. Sì, va bene, poi 20 cm più o meno dal microfono, perché giustamente questo è un più 5, quindi non è che sia questo grandissimo microfono. Sì, è un grande microfono, quello è tappeto, quello fa il suo lavoro. Fa il suo grande lavoro, tu avevi bisogno di un microfono del genere, quando ne avevamo parlato tempo fa, tu mi avevi detto, non mi piace perché non è di linea, però io lo sapevo già, tu avevi bisogno del microfono con i tuni per poter portare quelle radio, capito? E a quest'ora avresti avuto anche il mitico 680, cazzo quanto bombava sa radio, mamma mia. Andava, me lo ricordo, e vabbè, è andata così, ma questa è già un po' superiore a quella. Sì, ma ci vediamo, non credere molto, 680 è una bella radio, 680 e 690, capito? Sono veramente delle belle radio, cioè 50 mega è una radio che non crea problemi, assolutamente. Un po' superiore al 140 di netto, sia come ricevitore che come trasmettitore, però una radio veramente completa, e te lo dico perché le usate tutte, tu lo sai. 430 è meccanicamente una radio molto molto valida ancora, perché c'è un ricevitore favoloso, però 80 è una bellissima radio, e poi quella, minchia, se 200 watt la via quasi sa radio. Su quello già c'è ragione, ma vabbè, anche questa se aumenti già va, non più di tanto, però quello c'aveva forse qualche picco di modulatore in più, ma alla fine va bene anche così, tanto per fare due chiacchiere in città va benissimo qua. Ehi, a voglia, tra poco dovremmo arrivare a chi? No. Vabbè, comunque, adesso stamattina non si mansarda, stavo andando un'occhiata a quel piantone, poi ho dato un'occhiata anche alle antenne, ma per carità di direttive sono veramente in condizione pessima. Gli storni hanno fatto un casino che non viene bene a dito. Stavo guardando quel piantone e adesso con calma, piano piano, adesso appena mi recupero anche l'altro, che piazza Gianni, conservo anche quei radiali che possono servire, quel piantone mi metto perché devo aprirlo e saldare quel filo. Per forza, perché è nuovo, non se lo vedi, guarda, fate Gianni, un po' dispiaciuto, cazzo. Veramente, lavoro alla grande. Se la vedi da giù, nuova lanterna, nuova, mi sembra comprata nuova. Con i suoi radiali fibra, tutto, cazzo, anche chi c'è noi. E chi lo sapeva, maledetta, che ma gli butto una ghita a pulirlo tutto sui piantoni, fare il travolgimento nuovo, rifare tutto, ci ho messo il connettore nuovo. Guarda, una rottura di balle che non ti dico, cazzo. Aspetta, che sono a te. Via. Doppio root. Tutti guardando la partita siete. Giulio. Ai ai ai, Gaiesse. Oh, scusate, là, tu ci sei, mi è partito la portante come stavo mettendo a posto. Io ci sono, c'è Massimiliano anche al telefono. Eia, ti volevo chiedere, Cla, non è che tu stai ascoltando dall'altra parte, in alto? In alto, 525. PMR. No, non è spento, perché? No, perché c'è una radio e ancora non ho capito come esce di radio, dovrebbe essere bassa di radio comunque. Perché bassa? Se è quella che esiste sempre va bene. No, no, è un'altra Claudio, ecco perché non ho trovato nessuno per chiedere un controllo nemmeno. Oh, aspetta che accendo. Là, ci sei? Sì, sì, sono qua. Prova Marco. Aspetta. No, va bene Marco, la grande. No, c'è Marco, voleva un controllo in PMR, Massimiliano. Va bene, la radio è sempre quella per me. Ah, cos'è Cla, scusa? Prova. Va bene, sì Massimiliano, dimmi. No, lo stavo seguendo, cosa ha parlato Marco adesso? Sì, era Marco, c'è una radio in PMR, dice che secondo lui la modulazione era bassa. La radio l'ha fatta ascoltare, per me va bene. Ah, ok. Prova Marco se mi ascolti. Sì, Massimiliano, aspetta, tu stai ascoltando là? Sì, vado. Vai. Manco arrivo, mi. Hai sentito Massimiliano, te tu esci forte se tu ascolti. No, Massimiliano proprio non arriva qua. Purtroppo no, non lo sento proprio. Va bene, dai, adesso ne so una più del diavolo, dai. Poi se vuoi ti faccio vedere che radio è, se vuoi. Ma sta mandando. Prova Massimiliano, in PMR. Manda a vedere, sono 1, 2, 3, prova radio. Arrivi? Ehi, qua nulla, ho provato a sbloccare lo squelce pure. Vai tu Claudio un attimo, anche solo la portante, avere il segnale. Fondo scala incollato. 20. Ascolta Marco, ma tu c'hai l'antenna esterna o interna? Esterna. E tu con quanti watt sei? Io sto usando un watt e sono con l'antenna dentro casa, piccolina. Ah, paghissimo, eh. No, io antenna esterna anche se sono al primo piano. È 20 watt però, circa. Picca, aspetta. Io glielo dicevo, non fumo. Aspetta, voglio fare un'altra prova, Se sei tu, sblocchi lo squelch ma non arriva radio. E conta che io ho l'antenna in mezzo ai palazzi, proprio in un quadrilatero in mezzo ai palazzi. Come fosse una specie di cortile interno, mi. Ah, guarda se sto uscendo. Certo stai uscendo. Arrivi 5 qua. E più o meno lo stesso segnale, Massimiliano, c'è un baluto. Quale stessa adesso, quella che ti ho fatto io o la tua? Hai sentito una? Non arriva proprio qua. No, te l'ho detto. Se ce l'avessi sul tetto sarebbe un altro conto, dai. Va bene, dai, mi mangio qualcosina. Poi ti mando quella foto, ok? Ciao a tutti, buon proseguimento di serata, dai. Ehi Marco, quella stavo usando prima era sul tetto ma non serve a niente, no? Infatti domani ne avvado. È meglio che sia stagione a due o meno vita. Conta che, come dire, quelli della zona Latte Dolce, che ne so anche Bacchisio Basso ma Riva, gli altri sono tutti fondoscala. Tutti gli altri. Ok, va bene, dai, a da voi, ciao. Ciao. No, qua arrivi bene Massimiliano, c'è problema. Ehi, va bene. Ma il 58 va bene attaccare questo antennino? Perché non va bene, anche in macchina ho già dati 213. Va bene, quello è sono attaccate per i 58, le antenne sono da macchia. Gappa, andrà bene. Tra io ho un'altra fase di passaggi, mi è fuori mollo che devo salire a sasso, la prenderò a loro e devo passare a ritirarmi l'acqua che ieri l'ha presa, se l'ha dimenticata al negozio. E poi devo prendere un paio di sacchetti di pelle. Basilia, vai tranquillo, tanto io mi lascio acceso qua. Guardo un po' di TV. Capito? Chi è? Ti sta chiamando? Chi è? No, sono qua io. Ah, io ci sei? Sono qua. Ah, ok. Vabbè, no, stavo parlando, mi stavo informando del pelle con Massimiliano. Che mi ha dato una dritta dove comprarlo, costa di meno e va molto bene. Oh, anzi un secondo. Ok. E c'è anche un altro collo. Però forse sta mangiando qualcosa, non so. Marco, batti un colpo. Un colpo di mascella, eia. Dai, sta mangiando qualcosa, dai. Eia Claudio, quella piccolina sta in un palmo di una mano. Praticamente è un portatile camuffato da veicolare, col finale ovviamente più grande, una settantina di euro. Spicciolo più, spicciolo meno, non è un veicolare da 200-300 euro, quello costa poco più di un portatile, dai. Ciao Giulio, ho ben sentito, dai. Fatemi ruminare, già sono qua. Sì, la conosco. L'avevo vista. Va bene, tanto non si è invasi nulla, è fatto bene. Ehi, va bene. Giulio. Stanno bene di radio, sì? Cosa è sta guarda? Non ho capito. Se stanno andando bene di radio. Alla grande, senti, sta meglio di così. Va benissimo. Ottimo. Sì. Allora ha fatto un po' questo di PMR, ha fatto Marco, dai, continua a mangiare Marco, dopo casomai mi spieghi qualcosina di più a riguardo. Com'è qua? Ha fatto un nuovo acquisto di PMR? Una radiolina. Sempre un veicolare così piccolino da macchina. Ho capito. Sì, vabbè. No, pensavo che avesse comprato un portatilino, perché io ne ho visto uno portatile addirittura, di quelli tipo Baofeng, no, così. A computer, mi sto parlando del computer. Ho visto uno che ha addirittura 18 watt. Cazzo, sai che 18 watt per un portatilino mi sembra che costasse intorno ai 30-35 euro, boh, una cosa del genere, adesso non me ricordo bene, ma grosso modo siamo lì. E dunque 18 euro sono tante, 2 euro. E vabbè, però bisogna rimanere nelle nostre. Che ti devo dire, non ho mai capito. Io, vabbè, quelle cose lì bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti, ci ho trovato, sì, lo conosco. C'era un radioamatore che la usa in macchina, figurati, però a livello amatoriale. Vabbè, no, sono andato stamattina ad Andrea Oceano a ritirarmi il microfono e l'ho attaccato il 60 sullo Yaesu, vedi come si sposa bene. Ottimo, non me l'avete detto, io non avrei capito che stavi usando lo Yaesu, perché non c'è secondo me differenza, perlomeno differenza notevole da 440 a quello, è perfetto. Non gli ho fatto esperimenti. Io ho fatto esperimenti con i microfoni, sapevo già. Solo per non cambiare carretto, ne avevo un altro di carretto. E quindi tutti e due spiralatti originali. Uno l'ho fatto carretto di Aesio, l'altro quando mi serve sul timbro cambio il carretto e metto quello su originale. Capito? Ma ha fatto Massimiliano uno, di un 60 che aveva lui. Va bene, sì, è giusto per far andare anche qua, visto che non li uso in banda amatoriale, li uso in AM per radio, devi fare, però il microfono normale non mi piaceva, allora ho trovato questa opzione, perché con il suo microfono da tavolo della Yaesu non pompa, non pompa, c'è il Michelin a 1, a 1,5, l'abbiamo messo Massimiliano, più o meno come 4,40. Non pompa perché c'è un microfono da tavolo, ma non è una preamplificazione, capito? Servono solo per la banda laterale, invece questo che c'è che amplifica, lo sto usando qua. Perfetto qua, veramente è perfetto. Non ci trovo differenza tra il 440 e questo, va bene. No, io avevo la computer fino a 5 minuti fa, stavo dando un'occhiata così un po' a tutto. Ho aperto il sito Roger K e stavo leggendo, sai, le impressioni che scrivono ognuno ha le sue idee, chiaramente. Sono capitato che stavo parlando del 440, uno che stava parlando del 440, che la potenza era bassa, eccetera, eccetera. E dunque hanno illustrato con tante ore di fotografie, eccetera, qual è il motivo, eccetera, eccetera. Naturalmente bisogna saperlo fare, un lavoro del genere, non è così, no? A riguardo dei puntini anche parlavo, il discorso colla che bisogna togliere, insomma tutte quelle cose qua, e condensatori da sostituire, i quattro condensatori elettrolitici da sostituire, proprio fotografati in grandissima evidenza, e dunque se uno poco si dedica lo può anche fare, basta che abbia un pochino di dimestichezza con il saldatore e come fare leggere se stava andando, soprattutto quello. Ad entrare nel discorso. No, io diciamo che ho risolto, ho fatto due chiacchiere, l'altro giorno è entrato Fabrizio, mi ha spiegato alcune cose e ho risolto, non sono i condensatori, ho fatto prima una bella pulita con la trinina e ho risolto, infatti il difetto non lo sta più facendo, adesso lo accendo la mattina e parte subito tranquillo, non ha più fatto l'effetto, ho pulito bene tutta la parte del cucino con la trinina e poi ho controllato le tensioni. Sembra a posto, però mi ha spiegato appunto che le tensioni con l'andare del tempo, prima di andare a partire il condensatore, si abbassano le tensioni, quindi bisogna riportare le tensioni come in origine. E c'è un'altra cosa che ho notato, come dice appunto al computer, che il 440 non deve superare i 13,5, possibilmente tenerlo tra i 12,8 e 13, 12,8, 13 di alimentazione, non sovralimentarlo a 13,8 perché non va bene quella radio così. E infatti io l'ho portato, l'alimentatore del 440 l'ho portato a 12,9, 12,8, 12,9 col tester, e ti dico che sta andando molto molto bene la radio, rispetto a prima sta andando molto molto bene. Gli ho dato una bella pulita perché dentro non voleva visto, era tutto molto molto sporco, molto molto sporco, l'ho soffiato bene, l'ho portato dal carrozziere, piano piano con l'aria ho tutto soffiato e adesso sta andando bene. Alla grande, altro che va benissimo, ma io è da anni che lo sto usando con la tensione inferiore a 13,8, io addirittura lo sto usando a 12,6, che puoi immaginare, io il switching che ho io si può abbassare, no? Che parte da 3,5, 4, adesso non ricordo bene, fino a 15, una cosa del genere. E dunque, però c'è l'attacca per il 13,8, che quando senti lo scatto c'è la tensione 13,8. E io l'ho messo un pochino più bassa, ma l'avevo messa soprattutto per proteggere le lampadine, ad esempio le lampadine dello smitter, e frequenzimetro, tutte le lampadine insomma che ci sono, così essendo un pochino più basse, diciamo che c'è meno possibilità che si possa fulminare qualche lampadina, che poi può succedere lo stesso, e sia ben chiaro, però le possibilità sono di meno, ecco cosa. Ma da anni però, non da adesso, io non lo uso mai a 13,6, e ogni tanto controllo la tensione con test per vedere se risulta sempre quella. È vero che il switching che ho io risulta sempre perfetto a quella tensione, non c'è niente. Poi un'altra cosa che ho controllato caso se sia corrente alternata nel coso, invece no, è completamente stabilizzato il coso, non c'è nemmeno un volt di tensione alternata, è proprio stabilizzato al 100%, è un switch indica 30 ampere, no? Mentre invece ne ho un altro di quelli normali, classici alimentatori, quello mi dà sì 13,8 ed è fisso intanto la tensione, e poi ha 2 volt di corrente alternata. Cosa significa? Che magari si potrebbe sentire sotto a portante muta senza parlare un ronzio, ecco. Infatti lo vedete, ne ho sotto tutto, solo qua il 44, boh, basta, non ho niente, nulla di nulla nel tabulino, solo quello, ne ho sotto tutto quanto. Sì, vabbè, io ho quella che mi serve, ma il resto te l'ho detto, ho sotto anche l'altra base che hai fatto tu, l'ho portata su proprio per evitare di avere tante radio, tante cose attaccate, non servono a niente. Sì, ma è così, veramente così, sì. È veramente così, anch'io ce l'ho a 12,8, 12,9, prima ce l'avevo quasi a 14. E appunto guardando, quando stavo facendo quel lavoretto lì con la pulizia, lì stavo guardando lo schema e mi dava attenzione sull'alimentazione diretta, addirittura a 12,5, figurati. E quindi l'ho messo, beh, lo metto a 12,8. No, io non ho problemi della lampadina, perché quando si brucia una lampadina del 4,40, a differenza del 4,30, 140 e 180, che faccio da cambiare, il 4,40 devi abbassare il frontalino, e quindi è un lavoraccio. Allora, mi pare Fabrizio l'aveva fatto, quando ce l'aveva Roberto questa, e gli ha messo il LED bianco, ed è favoloso. C'è il LED bianco al suo posto, ha fatto bene, con la resistenza, un ottimo lavoro, e non si è mai bruciato, anche se la porta si brucia la radio, ma la padina non si brucia se aumenta l'alimentazione, capite? E io ho visto che il 430 è facilissimo da fare, perché ce l'hai sopra, ho fatto anche il 430 così, ho eliminato la sua lampadina del cacchio che metto, ma gli ho messo un LED con la resistenza bianca, non colorata, bianca, tensione giusta, e ti dico che va molto molto bene, non si bruciano, ecco. Quello è il lavoro che ti devi fare con calma, ti devi abbassare il frontalino, se non vuoi cambiare più quelle lampadine dello Smith, le metti un LED con la resistenza. Sì, quello sì, certo, quello io già lo so come si fa, non è un problema, anche so fare anche il cacco in base al tipo di LED, perché i LED non è che hanno tutti la stessa tensione, no? Ci sono LED che hanno, che so io, 2 volt di tensione, hanno bisogno di 2 volt, magari con l'altro viene a 2,5, l'altro 3,5, dipende dal tipo del LED che usi, no? Soprattutto anche dal colore, eccetera. E c'è che in base a ogni LED ci vuole il suo valore ohmico della resistenza adatta proprio per non bruciarsi, se no si brucierebbe subito il LED. Sì, quello sì. Sì, in quanto cosa, il resto lo sappiamo, magari ai finali potrebbe anche non fare niente, aumentando oltre i 13,8, perché i finali reggono fino a 18 volt. Tutti i finali, il transistor, queste cose qua, reggono fino a 18 volt, però non è giusto rischiare, perché potrebbe essere pericoloso, ci mancherebbe altro. E poi se è stato costruito massimo tensione 13,8, perché uno deve fare il cretino e aumentare oltre la tensione, non avrebbe senso, casomai abbassarla leggermente, intanto non ti comporta niente, nemmeno per in potenza. Cosa vuol dire sia se ti togli per dire un volt dalla tensione, non è la fine del mondo, i trasmettitori funzionano lo stesso alla grande, al limite vedrai solamente nello Smith è un pochino più buio, anziché avere un'illuminazione più alta ce l'avrai leggermente più bassa, questo è ovvio, è normale, però per dire, no, lo sappiamo benissimo queste cose, lo so da sempre io che i transistor resistono sino a 18 volt. Vabbè, comunque è sempre meglio un pochino più basso. Avanti qua. Sì, ma infatti è stata messa in base alla a quello che ci vuole, no? È stato messo così, no? Un bel lavoro, fatto bene, 3 anni che non si è mai bruciato. Ok, adesso ho commutato al 440, sto usando il 440, differenza Nutti? Io non noto nessuna differenza, guarda, non noto nessuna differenza, il volume lo tengo sempre al solito volume di che ascolto sempre così, non né aumento né abbasso, non lo tocco mai il volume, ed è uguale, identico, se tu non me lo dici io non me ne accorgo, l'unica cosa che sento è l'aggancio della portante e lo sgancio anche, solo questo, ma niente altro, non sento nient'altro, la pulizia della modulazione è straordinaria, non c'è una minima interferenza, nulla, è perfetta. Ma Massimiliano è andato via? Sì, aveva da fare, Massimiliano è andato via. Ma cosa vuol dire Duraccio? Va bene, sì, beh, lo stacco del PTT è quello, sono tutte 4 MC60, poi c'è l'SM20, già l'hai visto il microfono, l'MC80, nell'altro, e l'MC50 sul 780. Va bene, e le modulazioni sono quelle, non cambia niente. Va bene. C'è un freddo fuori stasera, allucinante. Sì, oggi c'è un pochino più freddo di ieri, sì, è vero. Vabbè, qui la temperatura con la stufa già scalda abbastanza, per cui non si soffre, si sta benissimo. Anzi, se vuoi lo posso anche aumentarla, ma adesso in questo momento è a 3. Però di solito la usiamo anche a 2, va benissimo. Poi una volta che scalda i radiatori, se sta l'ambiente rimane caldo, per cui non c'è problema. Stavo dicendo, lo stacco mio del 60 lo senti lo stesso qua. Guarda, è nota, voi io adesso stacco e vediamo un po' se fa lo stesso rumore come quello che sento io. Sì, sono tutti uguali, certo si sente lo stacco e l'aggancio anche. Ascolta, cosa stavo dicendo? Il Cagliari ha ripareggiato o ho perso? Il Cagliari ha perso 2-0 e ha segnato anche Ibrahimovic al 64esimo o 76esimo, una cosa così. Leao ha segnato il primo gol e poi Ibrahimovic. È un gol annullato a Ibrahimovic di testa perché era fuori gioco, ma non si può considerare annullato perché era fuori gioco. Milan fa la differenza con questo. Zingaro, peccato, in casa il Cagliari è stato sempre forte. Alla Cozzi, Maradona, Rivasi, e vabbè, stasera alle 8:30 c'è Inter-Atalanta, una bella partita quella. Lugarie. Claudio. Tutto a posto, freddo c'è, ho detto, stavo dicendo a Giulio Furi. È freddo, boh, qua a casa rocca. Mi sono appena lavato, tra un po' mangiamo e poi usciamo. Beh, da te, no, non andiamo, sono a partirci. C'è anche l'aria a casa, non ho voluto uscire manco lì. C'è freddo, boh, indiani, boh. Boh. Già va bene. Avanti Giulio. Ok, ciao Luca. Ciao Luca, stai uscendo molto bene. Allora Luca, tu avevi messo, stavi dicendo ieri, uno stigo di cosa? Non avevo capito bene come antenna lì, dove sei adesso. Me l'hanno autocostruito, uno stigo di manto qua. Mi è inserito un PL, ovviamente l'ha un po', perché non entra acqua, no, l'ha un po', diciamo, lavorato, ecco, farla entrare. E poi il tarasso con un pezzo di filo, no, è perfetta, io diciamo che ricevo abbastanza bene, dai. Sì, ma io ti sento benissimo in radio, di segnale non ho guardato, però ti sento proprio come quando ai vecchi tempi, in poche parole, quando uscivi da casa ai vecchi tempi, ti sento così, con la stessa radio, uguale. Sì, no, anche vi ascolto bene, dai. Ciao Giulio, anche a te. A parte Giulio, tu poi chi c'è? Io e Giulio, c'è Massimiliano, ma si è dovuto allontanare. E qua c'è anche un buon segnale, sei quasi 9, la radio 5 è perfetta. Ma un radiale di Mantova, un radiale qua di quelli in fibra. E io? Io ne ho uno però da 2,75 in fibra, che è di Gran Prix. Se te lo fai modificare è meglio questo di quello lì, perché quello lì è più corto, questo è lungo, 2,75 in fibra. Questa cosa è il discorso qua, che per poterlo utilizzare bisogna praticamente lavorare sotto la parte del mazzo, diciamo, no? E bisogna molarlo un po', carteggiarlo, sai cos'è anche, la prima volta mi si è spezzato, perché forse magari il vento troppo forte era troppo debole lì, dai, e se non fai così non ci sono altre soluzioni. Comunque si può provare, se è grosso com'è? È un bel radiale centrale questo, sì, più grosso di quello del radiale della, in fibra della Mantova, più grosso, e poi 2,75 quello che c'è tu cos'è, non è nulla. Questo è proprio il radiale centrale di una Grand Prix, che si avvita, capito? Si avvita, c'è la filettatura, no? Anche abbastanza grossa, quindi per lavorarlo sicuramente viene molto meglio. Sì, va bene, tanto ci vediamo qua, se dobbiamo andare là, da Dio Managiani, ci vediamo nel caso, se ti viene mai a portarlo, se no già ci organizziamo. Prima di tutto mi devo procurare un cronometro buono, dai, adesso vediamo. Vediamo, me lo faccio prestare, se di mio gradimento me lo acquisto. Ehi, va bene. E ricordamelo quando ci sentiamo, tanto sicuramente sarà martedì. Se gli arriva lunedì, io lunedì non ci sono, sono ad Alghero. Martedì si può fare il lavoro di Gianni, quindi te ne lo scendo. Lo modifichi e ci metti quello, perché 2,75 è l'onda intera, e quindi esci molto molto meglio rispetto a quello. Vai Giulio. Sei più corto, certo, 2,75 è già un quarto d'onda, per cui è già apprezzabilissimo come segnale, come cosa, come radiale. Certo, sì, fatto meglio, se c'è una flettatura è una vecchia, sì, la vecchia antenna di una volta, dai, il Grand Prix, eccetera, che aveva una flettatura. Tanto meglio, perché si può trovare sempre un dado che vada bene a quella flettatura. Inserire il dado in un piattello, isolandolo chiaramente, per non fare contatto col piattello, e dopodiché fissarlo con il piattello anche con un piccolissimo radialino, e così si fa la massa completa, e non è solamente lo stilo centrale, ma è anche la massa, praticamente risulta come la Grand Prix, in poche parole, o Luca. E si può anche provare, praticamente è stata costruita una piastra in acciaio, messo il PL film, io lo chiamo PL, non so come è esattamente chiamato, quello che si mette nella mano, voilà, quel coso dove tu inserisci il PL, quello lì, e niente, e poi è stato avvitato il PL sopra con l'antenna, no, già, guarda, ascolta anche a Franco di Sorso, diciamo che quella sarebbe voluta sul tetto, ma purtroppo è un casino qua, l'avrei anche messa, perché grazie a Dio sono in regola, non ho problemi, ci mancherebbe. È un casino qua, non fa, dai, non devo trovare proprio un punto giusto, bello, e senza creare problemi a nessuno. Poi il cavo purtroppo scende dalla parte dove c'è quello che abita sopra di noi, vabbè, non credo che dia fastidio, perché non gli passo davanti alla finestra, comunque magari mi posso anche organizzare la primavera, vediamo un po', se no se riesco a procurarmi anche una boomerang. Anche, vabbè, ma se va bene così, se non ci sono stazionarie eccessive, va bene, tranquillamente si può rimanere così, anche per non, come stai dicendo tu, per non indicarti nessuno nel prato, soprattutto per non creare problemi alla tua fidanzata, più che altro, non tanto a te che sei lì, perché se sei a casa di la tua fidanzata, i problemi magari se li può avere lì, allora a quel punto lì, ti sentiamo ugualmente, per fare quattro chiacchiere, Luca, ti sentiamo benissimo, per cui non ci sono problemi. Tu mi dirai, ma in estate magari potrei fare un collegamento, e quando hai voglia di fare un collegamento, te ne stai a casa tua e te lo fai a casa tua il collegamento, e che problemi ci sono, va bene, lo stesso. Tu cosa pensi qua? Io faccio un po' più di sì, quello va molto meglio, se riesci a inserirlo... come misura va molto meglio, è più ricezione che trasmissione comunque. Per dove sei e per come è messa l'antenna sei quasi 9 qua, quindi va benissimo, lui non c'è problema. Adesso a Dutusi. Oh raga, io però mi devo allontanare, sono già alle 7:30, 7:20, sono altri 10 minuti. Allora questi è avanti. Altri 10 minuti, dai. Riprendi lui. Se io qua invece mi devo assentare perché mi metto adesso, così prepariamoci. Comunque già sono qua in ascolto, dai. Vabbè, allora ti saluto Luca, se stai andando via, dai, ci sentiamo magari domani, se coincide. Vediamo un po' se ha finito di pranzare mister Marco Condo. Marco? No, non sto andando via, ma prima di andare via vi saluto, come faccio sempre, dai. Sono qua in camera e mi sto vestendo giù, dai. Ok, io Luca, fai pure. Non c'è problema, d'accordo. Marco, a quattro panacce stai mangiando? Non ti rispondono qua. È proprio assente in questo periodo, Marco, non c'è niente da fare. Entra un attimo, vuoi poi sparisce, boh. O si addormenta. Cosa pensi tu qua? Scusa giù che stavo rispondendo al telefono. Giulio, Luca. E a Cla, stava chiamando Giulio. Lei stava rispondendo al telefono. Ho fatto 10 minuti e poi andavo via perché è già tardi, devo portare il cane. Cos'ha chiuso? Forse mai l'ha scurato anche a lui il telefono, non so Cla. Vabbè, dai, mi preparo intanto, sono qua in ascolto, dai. A dopo lui. Sì, la fai con comodo Cla. Ho visto che ero rimasto per un attimo solo, ne ho approfittato ad andare un attimo in bagno. Claudio, sei? Claudio, ci sei? Sì, giù, stavo preparandomi per portare il piano, poi stavo rispondendo al telefono. Fai, qua, non è un problema. No, io, siccome ero rimasto per un attimo solo, senza risposta, allora ne ho approfittato per andare in bagno un attimino, per fare una piccola pischiatina. E Marco non entra, no? Mamma mia, ragazzi, che bomba, è una cosa incredibile. Marco, fate sentire, dai. È sempre impegnato, adesso sta pappando. E tanto lo so perché sta ascoltando. Solo che quando l'ho diventata, non ne ha voglia. Non ne ha voglia di dialogare con lui, no? Oggi strano, Gianni non si è sentito. Gianni, ci sei? Mi sono a femmini. No, siamo sentiti per telefono, verso le 5, boh, verso quello lì. Non so se lo va a fare tu. Vabbè, allora, sei impegnato. Sono andato a fare un giretto. Vabbè, comunque. E adesso in ansia, aspettando l'antenna. Lunedì la dovrebbe ricevere, così ha detto lui, ieri poi. Così poi la montate e so che gli danno mano tu. E dunque è tranquillo, è pacifico. Così almeno se ne togli il pensiero delle stazionarie e di tutto. Tutto vincola. E vabbè, a me dispiace tanto perché su quel piantone ci ho lavorato veramente bene, già l'ha visto Luca, ho fatto nuovo, però purtroppo all'interno io non c'ero, ho fatto tutto quello che c'era da fare fuori, perché se no, se la vedi sembra nuova con l'antenna, con i radiali nuovi, tutta nuova, però non ando, adesso lo recupero quel piantone e lo faccio nuovo perché lo spacco, lo apro, risalgo il cavo, se c'è da resinare lo resino di nuovo, lo faccio nuovo. Infatti è un peccato, non lo buttare non qua, quando hai un attimo di tempo e un po' di pazienza in più lo apri e lo sistemi, perché è sempre bello tenerlo efficiente, perché prima o poi potrebbe servire, non si sa mai. Sì, ma sarà sicuramente il capo che si è staccato, qualcosa del genere qua, perché hanno quel difetto lì di staccarsi il capo interno o queste mappe, ma è come un po' come quella che ho io, qua cari dai. Una volta, tutte le volte, quando aspetta che spengo PMR, se no è robe, ecco qua, avanti, aspetta. Stavo dicendo, l'avevo scelta due volte proprio perché non mi andava di vederla senza essere controcircuitata. Sicuramente una qualcosa del genere stesso, non c'è il contatto qua. Adesso già l'ho tutta sistemata, è nuovo, è tutta a posto, è tranquilla. Me la tengo perché mi piace averla così, ma non credo che la piazzerò mai più. Sì, ma la turbo è diversa, è più facile. Questa, il filo che è collegato all'interno è rivettato ed è all'interno, capito? Non ci vuole niente da aprire tutto e spaccare, veramente, ti ripeto, non l'avrei fatto anche l'avvolgimento nuovo, uguale, col filo di rame inguainato, figurati, è uscito un capolavoro, l'ho vista Luca. Vabbè, giù che c'è il cane qua che sta già piangendo, va. Sta facendo una cura e sta facendo molto la pipì. Se mi aspetti ci sentiamo dopo, ok? Ok, qua, d'accordo, vai, non fa soffrire il cane, che soprattutto se ha necessità è come noi, e forse anche figlio di noi, perché noi ci difendiamo con la parola, loro non si possono difendere. Vai qua, buon passeggiato, dai. Io adesso non ci metto a dopo. Ok. Attento Gianni, doppio room, ci sei? Attento Gianfranco. Marco, ancora prendendo, sai.